fatta di sale. Il sole cuoce la testa come le fantasie che bruciano, ma questo non è il Sud America. La spiaggia sembra affollata in due in un metro quadrato, così rimango più attaccato a te mentre la radio suona là per te e la luna bussò per me. Ho messo in tasca una chitarra, il mare ed un falò, la voglia sale su di me come la neve al nord. Tu dopo cosa fai? Se vuoi ci amiamo. Ogni estate siamo sempre qua, corona, limone, tequila, boom boom. Bisogna perdersi e ballare, ballare, e ad occhi chiusi cantare, cantare. La notte non finisce mai, corona, limone, tequila, boom boom. Non aspettare sempre il sole, bisogna muoversi e ballare, ballare. Due labbra come un miraggio, il cuore batte e fa. Stelle marine che combattono, ma questo non è il Sud America. La meta non è importante, quello che conta è partire. 100 miglia per raggiungerti, 100 fitte nello stomaco, ma ne balza la pena. E diamo fuoco un'altra notte intorno ad un falò, la voglia sale su di me come la neve al nord. Tu dopo come stai? Se vuoi balliamo. Ogni estate siamo sempre qua, corona, limone, tequila, boom boom. Bisogna perdersi e ballare, ballare, e ad occhi chiusi cantare, cantare. La notte non finisce mai, corona, limone, tequila, boom boom. Non aspettare sempre il sole, bisogna muoversi e ballare, ballare. Quest'estate italiana, i selfie fanno da scena. Tu vuoi ballare sempre reggaeton, ma questo non è il Sud America. Ogni estate siamo sempre qua, corona, limone, tequila, boom boom. Bisogna perdersi e ballare, ballare, e ad occhi chiusi cantare, cantare. La notte non finisce mai, corona, limone, tequila, boom boom. Non aspettare sempre il sole, bisogna muoversi e ballare.